Eccoci, ciao ciao ciao. Allora prova 1 2 1 2 1 2. Oggi ci siamo? Ci siamo? Ok, grande Prodi 147, non mi abbandona mai, grande grande. Ci abbiamo anche ospiti esterni e noiosi sì, noiosi semplicemente, altri aggettivi dispregiativi, vuol dire? No, ce li conserviamo, basta. Ok, abbiamo aperto con la fantastica Avi Bry, I've Been Crying Too Long, che io mi risentirei da capo, e poi nulla, poi apriamo la quinta puntata di Reg 69 qui su Radio Wombat. Quello di qualche minuto fa era solo un falso inizio, una falsa partenza, e era semplicemente per avere un alibi per fare un pull up, per fare e un pezzo, come sentite dalle sonorità rocksteady, è intensissimo, e siccome lo ascolto da qualche ora quindi sarà la 137esima volta che oggi ascolto questa puntata di questa Reg 69 qui su Radio Wombat. E ancora grazie a DJ Prog 174,3 che anche oggi mi accompagna alla copertina da mettersi sulle gambe per riscaldarsi, e intanto metto qualcosa di sottofondo così che rompe un po' il ghiaccio e non rompe lo huevos, e mandiamo Lloyd Charms and the AP Boys, e poi che come sentite non c'è l'altro del duo, quindi non sono un duo, sono uno. L'altro DJ Azio oggi ci ha abbandonato perché doveva andare a cambiare, è fissato, no? Dice no, devo aggiungere altri 20-30 specchietti alla mia lambretta. Che ha preso e partito, è andato su in Inghilterra con la lambretta, andò alla Brighton, e allora, e quindi nulla, ora è per strada, quindi un po' ci distanzo, dove sarà? In Francia? Il grande DJ Azio lo salutiamo, che martedì prossimo speriamo che è con noi, e questa puntata è dedicata anche a te, tanti fantastici pezzi e... E nulla, ci siamo, diamo inizio a questa puntata, siamo partiti proprio in extremis. E bene bene bene, allora oggi apriamo con questa fantastica etichetta che si chiama Bullet Records. Bullet in inglese è proiettile, ed è stata una delle tante sussidiarie della Pama Records, che ha stampato questa etichetta, ha stampato solo 7 pollici dal 69 al 75. E questo sottofondo che sentiamo, questa strumentale, che è un intero album praticamente, è Lloyd Charms and the Hippie Boys, che è uscito nel 69 proprio per la Pama Records, perché anche più tardi, dopo, daremo qualche curiosità in più di questo gruppo, che appunto erano gli Hippie Boys o The Hippie Boys. Bene, bene, bene, ci sentiamo questa simpatica Soul of England, che è abbastanza folcloristica, ecco, via, io la definirei così. E poi diamo ufficialmente inizio a questa puntata qui su Radio, me lo dico da solo, Womboard. Now Ok, questa è Girly o Girly con Madame Streghe. Diciamo qualche curiosità, perché già la Prog 143 ha già sentenziato questo, l'ha buttata pezzo di merda DJ Set, quindi subito. Ok. E allora tiriamo fuori subito qualche curiosità. Questa Girly con alias aka The Reggae The Road Girl, che ha fatto praticamente un album con il grande Lore Lightken, che inseguida, come si dice in provincia di Napoli, inseguida manderemo Lore Lightken con e insieme hanno fatto quest'album Girly and Lore Lightken Scandal in a Brixton Market. Provate a immaginare voi l'anno di uscita di questo album, e sempre per la Pama Records, e quindi in seguita, ormai lo dico così, e ci sentiamo Stupid Married Man di Lore Lightken. Jagabat running wild. You feel like a king with your face full of a smile. Then you say the running must stop. You put her in a house. You make she feel like she win jackpot. Your family might get vexed because them know it's married next. But when you're married, you play the bass. But the woman that made you so jealous sometime, that it gets you so cross. But if you plant cassava, you can't get fig. You put a hog in a palace, still remain a pig. Stupid married man. Accustomed to must stop from the time she say I do. Don't do this, don't do that. Shut your trap and go to shop. And when them belly big, no woman like that. Finally, she get too used to you. She start taking you for a mumu or bagaboo. Then you see you find a different man. When you ask her, she say, Lord, people can't talk to people. You know, steal my cousin Dan. Then things get funny. She start complaining about the house money. But it's that she won't take bath now. Every evening you come from work, I'm out long life we call. Ok, ok, e stiamo ascoltando Stupid Married Man. E il prossimo gruppo invece che andiamo a presentare, rimaniamo sulla voce al femminile. Quindi abbiamo ascoltato prima Girly alias O'Girly alias The Road Girl, e il prossimo pezzo che ascoltiamo invece sono le Ebony Sisters, che nasce come gruppo gospel nel 69, e registrarono tutto nel 69. Nasce, vedete un po', anche se uno vuole dare altre notizie, altre curiosità, no, si casca, è crucial 69. Ok, che registrano con il nome di, nel 69 iniziano a registrare con il nome di Reggae Girls, e infatti troviamo, escono con questo alias o AKA che dir si voglia, esce Rescue Me, che è una cover di Fontella Bass. Rescue Me, bellissimo tra l'altro il pezzo. E anche loro riprendono, come nella puntata precedente sono, che abbiamo presentato, sono a Preacher Man, che è uscita nel 75. Però a differenza della versione che abbiamo ascoltato nella precedente puntata, che tutti ricorderete chiaramente, e che tu non riesco a trovare più dove sono, dove. Ok, e nulla, è praticamente una versione che ha sonorità un po', che ha sonorità roots, e il gruppo si scioglie nel 76, quindi un anno dopo l'uscita di questo Son of a Preacher Man, una interpretazione loro, come abbiamo appena detto, in chiave roots. E il trio si divide, che era formato da Norah Dean, G. Williams e Paulette Williams. E Norah Dean, quest'ultima, è morta nel 2016, quindi anche più o meno attuale, no? all'età di 72 anni. E mentre G. Williams e Paulette Williams si proporranno poi come duo per altre pochissime produzioni per la Gigi's Records, mentre Norah Dean nel 73 ha fatto da, diciamo, era nella come si dice, nella parte vocale, nel vocals, come vocal di Jimmy Cliff, e poi si trasferì a New York City verso la metà degli anni 70. E quindi nulla, e basta. E possiamo trovarle anche, come abbiamo letto prima, con Reggae Girls, The Soul Sisters o The Road Girls. Quindi vedete, c'è tutto un filo conduttore in questa. Non è detto niente a caso, ecco, come tante volte mi rimproverano, denunciano, o critiche così un po' farlocche, un po' bislacche, un po' sterili, un po' di Ebony Sisters, let me tell you boy. Oh, Ok. Allora abbiamo continuato a fare un po' di pseudo DJ set, nonostante le forti critiche arrivate dalla censura qui di Prog 147 e qualcun altro che non graditamente partecipa alla mia trasmissione. Però bene, il prossimo invece side A, side B che vado a presentare ormai anche le... Bene, è un side A, side B stupendo, perché sul side A troviamo Dennis Walks, Heart Don't Leap, e mentre sul lato B troviamo la abbastanza conosciuta, ovviamente per chi segue un po' il genere, I'm Sorry dei Clarendonians, che anche questo è un pezzo rocksteady, e quindi si differenzia un po' dal boss sound o early reggae che regna sovrano nelle nostre puntate, anche perché l'anno Crucial 69 è l'anno per eccellenza del boss sound dell'early reggae, quindi sono piccole macchiette e piccoli, tipo appunto questa I'm Sorry dei Clarendonians che esce sul lato B di questo dischetto, e diciamo qualche curiosità. E intanto io, giusto perché non mi piace parlare in silenzio, e quindi faccio partire questa Heart Don't Leap di Dennis Walks, e intanto dico qualche curiosità del side B di questo dischetto, che come appena detto sono i Clarendonians con I'm Sorry. E ora sta andando, vero che sta andando? Diciamo che sta andando, eccolo, chiaramente lo faremo ripartire perché è un pezzo stupendo. E nulla, questi Clarendonians praticamente è un duo formato da Ernest Fitzroy Wilson e Peter Austin, che cominciarono nel 63, pensate un po', e Peter aveva 17 anni mentre Ernest Fitzroy Wilson ne aveva solo 11, quindi pazzesco, proprio da ragazzini buttati negli studi di registrazione. E poi qualche tempo dopo si aggiunse un terzo componente, che poi diciamo è quello che un po' più ha conservato la figura di reggae star, possiamo dirlo, Freddie McGregor, che addirittura fu portato in studio a 7 anni. A 7 anni, e leggenda narra che doveva stare su di una cassa per raggiungere il microfono e cantare e registrare, il pazzesco. E di lì a poco il trio si scioglie, e poi vabbè, Freddie McGregor intraprende la sua carriera solista abbastanza famoso, e nel 2013 si sono uniti per festeggiare i 50 anni dei Clarendonians. E quindi noi dopo ci ascolteremo la fantastica I'm Sorry, dolcissima, era molto, in effetti oggi ero molto combattuto tra il I've Been Crying Too Long, pezzo d'apertura, e I'm Sorry, però ce l'ascoltiamo ora, via. What I don't see, Ok, gli appuntamenti della settimana. Allora, aspetta, abbiamo anche una fantastica sorpresina, un jingle, vero? Si chiama, tecnicamente si chiama jingle, che il nostro Prog 148 era intrepido, no, impaziente, voleva mandare, così almeno si sente partecipe della trasmissione. E nulla, perché siamo agli eventi della settimana. E allora, e intanto che Prog 148 dà valore alle sue peculiarità informatiche e tecniche, e io comincio con presentare. Allora, eccoci. Allora, comincio a presentare venerdì, è vero? Controlliamo bene. Invece sì, 23 novembre, quindi dovrebbe essere venerdì. Venerdì 23 novembre al CPA Fisud, serata reggae night andiamo a vedere un po', c'è la scalettina della serata. Ok, ci sono gli Imi Roots Sound System da Piombino, Lion's Way Sound System da Roma e Disco Rebel Foundation da Sound System Attitude, come si autodefiniscono, quindi simpatico anche come autodefinizione, da Firenze. Sentite, questi non sono i rutti miei, ma è bensì il African Zulu, quindi già mi avevano, la censura già si era attivata. E quindi nulla, questo è il primo evento della settimana. Poi allora andiamo a trovare l'altro. Giovedì 22 novembre, ore dalle 21 alle 24, laboratorio di musica condivisa Machine Funk. Poi ci abbiamo sabato 24 novembre e ce lo dirà esattamente questo jingle che Prog 146 sta mandando ora. Vai, dagli il volume, fratello, al canale. Quello è il pitch. Sabato 24 novembre al CSA Next Emerson di Firenze alle ore 20, presentazione di Scarceranda 2019. L'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Tutte le info su www.csaexemerson.it. Ok, ok, avete sentito questo fantastico jingle delle nostre sorelle, yes, di come sono la Brusca, le sista della Brusca. Ok, ok. Allora, quindi nulla, come avete sentito dal fantastico jingle autoprodotto, autopronunciato, autoreferenziale, autostop, autogrill, presentazione dell'agenda scarceranda. E quindi ci sarà questo sabato 24 novembre e anche poi dopo la presentazione ci sarà quindi dalle ore 22 un po' di gruppi da ascoltare, i gruppi, quindi sono lì come mai quello non ho mai capito che i gruppi della scena hardcore e simili, qui crust hardcore insomma tutta quella scena, hanno sempre dei nomi tante volte impronunciabili, e quindi A parte sì, i loghi illeggibili di tanti gruppi, però anche poi se riesci a trovare più o meno una scaletta decente sono impronunciabili, soprattutto per il mio inglese maccheronico. Comunque va bene, ci sono gli Gengi da Milano, Northwood, i Starpaglie, i Collapse e i Chora. Quindi bene, c'erano un po' di gruppi mix da Firenze, da fuori, da Milano, da Perugia, quindi quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 gruppi, e quindi non lo so, via via, che se ci siete diamo altri eventi che vengono fuori, e mi sa che avevo qualche altro evento da dire che non ricordo, però va bene. E intanto mandiamo un altro pezzo molto molto bello, sempre dello stesso album, House in Session, che dà anche il titolo appunto all'album di quest'album di Lloyd Charms and the Hippie Boys, Listen and Dancing. House in Session. Now, ladies and gentlemen, let's hear what these distinguished personalities have to say about the sounds of now, the reggae. Now, let's have the first speaker. Let's give a big round of applause. Come on. Thank you, Mr. Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen. I was once the best reggae man in this country, but now I've resigned from such activities, and now I've left it up to my son to do it. This reminds me, 1937, I went to London to a very important conference, and I left each and every night that I was in that country to go to a boogie session. Now that I've resigned, no one is going to stop me. For as a matter of God will help me, I should go teaching every night when it comes and I get back my strength to do the reggae. Ok, ok, questa era House in Session, che dà il nome all'album, e come giustamente mi ha fatto notare Proghi 112, era il sistema odontoiatrico nazionale giamaicano ai tempi, lasciava un po' a desiderare. Quindi questo magari a suo poveretto facevano cantare, lo facevano incidere per fare due soldi per rimettersi i denti, persi prematuramente. E bene bene, questa è una trasmissione seria, però qui 112 vattene a e via. E nulla, prossimo è George Williams, che ascoltiamo Side A, Side B, No Business of Yours e Mash It Up. E poi poi un po' di notizie sui vari social siti, vediamo dopo. Pro 118, vediamo ora con lo sdentato di sottofondo, vai. Bene, c'è il sito wombat.noblogs.org, Twitter, Radio Wombat Fee, Facebook, Radio Wombat Firenze, e la mail posta wombat @insiberia.net. Bene, bene, bene. E poi user, no, username, quelli non li diamo. La frequenza. 13:59 AM o 13:59 AM o 13:59 AM. E sera rubate direttamente para otto. Bueno, vai. Sti stronzi mi stanno facendo delirare. Se c'era DJ Azio mi riportava subito su nei miei ranghi, e lui serio, solo che oggi, come vi ho detto, andrà a portare la Vespa a mettere altri 700 specchietti. Va bene, via. George Williams, No Business of Yours. ok, ok, loro sono i Tenors con Festival Nox. E questo gruppo praticamente era formato da un duo, George Clive Murphy e Morris Professor Johnson. E il loro primo singolo esce nel 67 per la Studio One Records e si chiamava Pressure and Slide, che poi diventò la hit praticamente nel 1967 e stette nelle classifiche per diverse settimane. E i Tenors, come abbiamo detto già diverse volte nelle puntate passate, forse pure oggi, e questi gruppi praticamente uscivano con una serie di alias o di varianti, e noi ce l'abbiamo sia in versione Tenors che Fabians. Infatti con Fabians, per la stessa etichetta, esce un altro Side A, Side B con Beer Rocket e Smile, due pezzi stupendi anche questi. Però per ora ascoltiamoci prima i Tenors e dopo facciamo una bella carrellata arrivando fino a chiudere con Smile dei Fabians, a.k.a. i Tenors, che sono quelli che stiamo ascoltando ora. The sun shines bright, the day looks so gloomy to me. My baby and smile, ah,

Ok, allora ci siamo sentiti Dennis Walks con Love of My Life and Shady Tree, che sta andando ora di, come sottofondo. E nulla, il prossimo side A, side B è Rico Rodriguez, che l'ha presentato anche il nostro DJ Azio qualche puntata fa. E siccome andando a cercare appunto questa etichetta, le varie produzioni, trovo questo side A, side B di Rico Rodriguez, e trovo questo Tribute to Don Drummond, un pezzo abbastanza conosciuto, e quindi ho trovato opportuno, come si dice, sì, dice sempre di sì, tanto poi la figura di merda le faccio io, ho trovato opportuno raccontare Don Drummond, e quindi nulla, lo faccio ora, magari metto anche opportuno. Ho ritenuto opportuno, e così ho detto io, mica, cioè un po' l'accento un po' così. Allora, lo mettiamo di sottofondo almeno, poi lo facciamo ripartire, non temete. E nulla, praticamente Don Drummond era un trombonista e tra i membri fondatori degli Scatalites. In che anno è morto DJ Prog 147 secondo te? In che anno secondo te è morto Don Drummond? Nel 1969. E quindi no, è inutile, vabbè. E praticamente è morto in un manicomio dove era stato internato, e lo internarono perché praticamente fu arrestato per l'omicidio della sua fidanzata Margarita Mafut, e lui aveva sì dei problemi mentali, però negli anni 50 fu premiato, pensate un po', giovanissimo, miglior trombonista giamaicano. E ufficialmente si tratta di suicidio, ma ai tempi però molti musicisti giamaicani, diciamo così, non gridarono un po' allo scandalo, quindi a una sorta di complotto via del governo contro di loro, contro appunto i musicisti giamaicani ai tempi. Chi lo sa com'è andata, però nulla, e quindi era questo Tribute to Don Drummond. E sembrava doveroso, ecco, raccontare queste curiosità, queste news. Bene, lui è Rico con, abbiamo appena detto, Tribute to Don Drummond. We'll be right back. Ok, ok, gli Hippie Boys come con Oginami Mente. E nulla, inizio puntata per come avevo promesso, è uomo di parola. Minchia, nulla, avevo promesso che avrei detto qualche curiosità appunto degli Hippie Boys, che ho aperto con l'album loro, Lloyd Charms and the Hippie Boys. E nulla, praticamente era una backing band formata nel 67, con alcuni membri anche poi degli Upsetters di Lee Perry. E in questa band ci sono dei nomi di lustro, dei supernomi, quindi ci sono Aston e Carlton Barrett, che rispettivamente Aston Family Man Barrett al basso e alla batteria, Carlton Barrett, che erano, diciamo, e molto più noti per essere i membri principali e forse più longevi dei Wailers, dei Bob Marley and Wailers. E il grande Glenn Adams all'organo e Lloyd Charms appunto organista entrambi, e per la loro quindi proprio nel 69 escono due album, Reggae with the Hippie Boys e Lloyd Charms and the Hippie Boys Housing Session, che abbiamo presentato all'inizio. E quindi nulla, era questo che ci era doveroso raccontare. E poi nulla, poi li troviamo anche con Clancy Eccles and the Dynamites, che era un altro pseudonimo, con Faya Connor, nel 70 esce anche sia per la Clan Disc che per la Trojan. La Clan Disc, ricordiamo, del produttore Clancy Eccles, e nel 70 esce anche Herbsman Reggae, sempre Clancy Eccles and the Dynamites. E quindi nulla, quindi basta, siamo in chiusura. E queste sono le ultime pezzi che mandiamo, sì, un insieme di note che mandiamo di questa Ballet Records. E forse andiamo ai saluti pure oggi, Proghi 112, vero? Sì, sono le 8, le 20 e 17 sul nostro orologio, sul nostro Big Bang. E quindi siamo in chiusura e manderemo un po' di pezzi e fino alla nostra ora. E salutiamo tutti. E non sono riuscito a presentare tutta la mia scaletta della Ballet Records, non fa nulla, però c'era anche un Peter Tosh con Selassie Serenade. Anzi, sentiamoci proprio questo Peter Tosh, Selassie Serenade, via. Bene, ciao a tutti, ci vediamo martedì prossimo, stessa ora, stesso posto. DJ Prog 117 vi saluta calorosamente, con affetto, e oggi voleva bullizzarmi facendomi delle domande a cui era sicuro che non sapevo rispondere, non l'ha fatto, però va bene, via, ha avuto il suo momento di gloria e non c'è né gloria né momento, quindi nulla. Bene, ciao a tutti e a martedì prossimo. I'm not afraid of you. You could have even wear a gun. I'm not afraid of you.